10, c'è qualcuno? Roberto, tu sei? Sì, no, sono qua con un amico, con Giovanni, stiamo facendo rivedere la radio, c'è un po' di ronzio però, Marco. Io? Vediamo un po', se il microfono, vedi un po', 1, 2, 3. Sì, adesso è un po' diminuito, forse ho qualche alimentatore, non lo so, ti stai portando un ronzio sotto. Purtroppo non ho la possibilità di ascoltare, Robè, ti serviva qualcosa, un controllo, roba del genere? No, gli ho fatto sentire l'apparecchio in funzione a questo amico, a Giovanni Bracco, il radioamatore, e ho detto aspetta, stavamo facendo la differenza se c'era qualcuno in frequenza, ho chiamato, adesso hai risposto tu, niente di particolare, grazie comunque del passaggio. Sì, Robè, oggi c'è poca gente, magari è giornata lavorativa, chi può è a lavoro. Mi sono fatto una bella spesona oggi, ho comprato medicine, insomma è stata una mattinata costruttiva. Ok Robè, salutami Giovanni, io mi stavo mettendo a posto un po' in cucina e poi ancora è presto per me, poi fra mezz'oretta metto qualcosa a cucinare. Ok, ci sentiamo Robè, ciao. Ciao Marco, a risentirci, sono Giovanni Seu, ciao. Ciao Giovanni, ben sentito dopo mesi mi pare, dai, tu non trovi dal tuo QTH, dai, ok. Dai, buon saluto e ci sentiamo le prossime. Ciao ciao. Ciao, alla prossima, ciao. Nicola, oggi è deserto, proprio nulla oggi, stasera. Marco da questa parte, sto per mangiare, dai, sono andato a salutare. Ciao Nicola, ciao. Qua per la cronaca ho comunque 9 più 5 a segnale, ok? Ci sentiamo, ciao. C'è qualcuno? C'è 10? Negativo. Ah, io guardo il segnale. Ciao Marco. Ciao Claudio, io oggi non. Buio totale. Comunque 9:25 spaccato. A questo ridicolo smitter. Ma io devo fare dei passaggi seri, però io perché ho attaccato l'RMITER e mi sono rotto le palle con questi vintage che non escono neanche a misericordia. sei, già esco una voglia, a Sassari dintorni ti sentiranno Alghero, ti sentiranno dappertutto, così in alto. In realtà anche mettendo 100 milliwatt in città ci sentiamo tutti, città e dintorni, assicurato. Aio, a te, ma dai, portami che ti stacco, aspetta che stacco. Allora, aspetta che stacco. Allora, così è la prima marcia. A te, ma mi dai, aspetta che stacco. Sì, avendoti attenuato sei 5 grosso modo, però non sento quelli bassi, sento solo te. Cioè questo ti attenua in modo drastico e drammatico. Allora, qui sono liscio. Guarda a vedere, 1, 2, 3, 4, quanto è attenuato? Sì, qualcosa tipo 3, però questo non è affidabile, quindi prendila per buona, Claudio. Non mi interessa, non mi interessa, è giusto superficiale, così. Orientati vai, quindi Santiago 3 attenuato, non togliere l'attenuatore. Ok? Ok. Allora, così è la prima marcia, RM Italy 805, attenzione che sono 600 watt. Ok, prima marcia, quanto è salito il segnale? Sempre attenuato, 5 modulato, quasi 5 modulato. Seconda marcia. 6 modulato, circa 6, per non dire 6 pieno. Aspetta, vado avanti, non ti spaventare. Terza marcia, ok, terza marcia, 1, 2, 3, 4, la radio intanto non cambia, perché è impossibile che cambi, con un lineare da 600 euro. Questo è quello grande, attenzione che questo è quello più grande che ho, RM Italy 805, 1000 watt, no, che cazzo sto dicendo? Questo è il 1000, ho sbagliato, attenzione, questo è il 1000 CV, 6 versioni, questo è il modello 1000, attenzione. Allora, quindi sono in terza marcia, quanto è salito? Allora, 7 modulato, sono moduli 7, però ripeto, il meter dice che, comunque prova, aumenta. Intanto sta salendo da... Siamo in quarta marcia, quanto è salito? Quarta marcia. Allora, circa 7,5 modulato, 7,5 modulato. Mi scuso se qualcuno basso parla, però io ho l'attenuatore e sento solo Claudio. Già ce l'ho io la radio attaccata, non ti preoccupare se parlano. Quinta marcia, quinta, sei sempre attenuato tu, e devi farlo attenuato perché siamo oltre, allora siamo in quinta marcia, siamo a circa 600 watt. Fammi un bel hola lungo. Hola, hola mi. E io stavo a prendere la porta. Hola. Hola. 7,5 quasi 8. Cacchio di Buddha. Aspetta che non è finita. Sempre modulato e ti sto dicendo, Claudio. Pieno, però non è 8,5, è 8 pieno modulato. Finite sono le marce, quante marce bisogno? 6. 6 marce, adesso tu metti, togli l'attenuatore, togli, io cambio, però metto, siamo oltre 700 watt. Abbasso la potenza, l'ho messa in quarta marcia. Siamo a 600 watt modulati. Togli l'attenuatore, guarda quanto è segnato. Più di tanto non va, Claudio. 9 più 30, praticamente dopo la stina verticale del più, sei un millimetro più della stina verticale del più. Di più non va, comunque non c'è niente da fare. Non capito, non c'ho il 960 di fondo scala, ci vorrebbe uno strumento del Kenwood. Comunque tanta roba, certo, se faccio i calcoli, oddio, non è affidabile come da attenuato questo controllo, però si, l'incremento si vede come, cioè da liscio è allucinante. E questo è l'LA 1000, questo è 1000, ancora più grosso dell'805. Ti mando la foto, ti spaventi? E magari l'ho visto su RM Italy, che me li guardo sempre i modelli, e tu manda comunque, dai. E infatti volevo dire, porca miseria, non me ne ricordo. Ma tu questi watt, come sono questi 1000? Sono in banda laterale tipo picco picco o li dai in AM 1000? AVG, sto dicendo. No, senza picco picco, questo è l'LA 1000, poi c'è l'800, questo è il 1000. Questo è 600 watt, pieni te li dà di portante, 700-750 modulati, e siamo oltre i 1000 in banda laterale. Aspetta un attimo, io metto per scuola, c'ho un corrente elettrico. E qua è un teatrino, è come corrente elettrico. Aspetta, mi ha mandato un messaggio un amico, è molto Solange. E chi era Solange? Solange, ma cos'era? Qualche ricchioncello dallo spettacolo? Non me lo ricordo io. Ehi, aspetta, sto facendo la foto. Chi è avanti? Avanti, chi è? Non è Francesco, no? Da Ugilo. Cazzo, il telefono scarico, ma già esce lo stesso, aspetta. Ehi, se no lo mandi con calma, lo mandi, se non è oggi, è domani. Ehi, va bene. Sì, un bel incremento, porca miseria. E quelli sono già, dopo un certo livello, è roba già professionale, diciamo, dai. Sono più filtrati, sicuramente hanno più tecnologia dentro. Questo è HF, questo è un 030. Vai Nicola, buonasera. Lo senti? Sì. Santiago 9 è spaccato, la radio è buona. Diciamo, vabbè, 4 perché non è particolarmente forte, dai. Comunque è ottimo, è che siamo vicini, dico, sempre lì siamo. Claudio, come lo copi tu? Bene, non c'è problema, ottimo, va bene. Nicola, mi ascolti, cambio? Vabbè, dai, ci sono anche le cuffie, mettitele un po' di cuffie, dai. Arrivi, Nicola, non c'è problema, non ti preoccupare. Oh, Marco, la modulazione com'è, buona? Non un bijou, di più, molto forte, però è chiara, non ha timbriche brutte, tipo metalliche o acute o cupe, è ottima. E poi mi spieghi come fai a non saturare, come lo stai pilotando, molto in basso, interrogativo. Se pilota questo, se satura questo lineare, Marco, questo lineare costa 620 euro, ok? Se satura questo lineare, chiamo la RM Italy e faccio arrestare. Questo c'ha 4 finali, 4, non 2, 4 finali a MOSFET a doppia conversione. È una bestia, guarda quanto è alto. Attenzione che va a 24 volts, stai attento alla foto che ti ho mandato, c'è l'alimentatore a 24 volts sotto. Sì, quello con l'interruttore, stavo notando anche la particolarità, no? Il colore, l'aspetto, mando messaggio. Sì, è una bella bestia, è fatto in una maniera eccezionale. Gappa. Sì, mandato, ho visto, è una marca conosciuta anche, cioè l'ho già vista, e non è roba magari che alla mia portata, perché non mi servirebbe, però, è una marca conosciuta, diciamo, dai. Sicuramente dentro c'è quello che ti ho scritto. Esatto, perché quello che mi hai capito costa quasi 1000 euro. Allora mi hanno consigliato questo, che praticamente è uguale, capito? Ma è una bestia, una HF è una cosa spettacolare. L'ho provato in 40 metri stamattina, mi hanno detto quanti kilowatt ci avevo. Avanti break, buonasera. Ciao Claudio, buonasera, ben ascoltato, spero che tu mi ascolti, cambio. Io sto andando con il 574 della Midland, microfono MB+5, amplificatore RM Italy, diciamo intorno, siamo alla terza potenza, intorno ai 400 watt. Poi alla grande, 9+10 abbondante, quasi 9+20, e radio Super 5, KK. Vediamo un po' come ti ascolta Marco. Avanti Marco. K, Ciao Chiodoro Ginitto, ben entrato e ben sentito. Allora, premi la portante che guardo bene il segnale. Sì, allora il segnale è 9. Praticamente è modulato 9 spaccato. La modulazione è buona. Modulazione, sì, potrei dare 4-5, dai. E che Claudio è talmente, oggi sta uscendo talmente bene che mi oscura gli altri, capita? Nicola di Lato Radio 4, anche se vicino. Nicola, riprendi, lo senti l'amico Chiodoro Ginitto? Eia, che mi sto spogliando, vai Claudio. Sì, allora, non ha ripreso Nicola, non ha ripreso, forse o si è allontanato un attimo oppure l'hanno chiamato, comunque dai, se chiama siamo qua. Capita, io ho le caldane, ho il viso tutto rosso e sono tutto infuocato in faccia, perché ti spiego. Ho mangiato e io, non essendo abituato, ho bevuto 2 bicchierini di vino rosso, che era un vino, sai, di quello dolce e frizzante, e da un bicchiere sono diventati 2, e non essendo abituato mi ha fatto il viso bello colorito. Oh, Chiodo, riprendi. Sì, credo che sia uno spumante un po' anomalo, ed è dolce, frizzante, però rosso. E ti dirò che era di un buono, però è pericoloso, perché io sono, quasi astemio. Quindi ho meno netto come gli sto, però buono. Mi ha messo un po' di fuoco in caldaia, dai, visto che avevo freddo. Vediamo se è rientrato Nicola. Nicola, ci sei? No, ancora niente, dai. Va bene, Claudio, se poi riprendi. Sì, QSL. Ascolta, un'altra cosa, Mancoli. Senti molto la ventola? Che stanno andando le ventole a tutto andare. Senti molto la ventola? O la copro con la modulazione? No, nessun problema. Si sente un leggero soffio lontano, ma non è di quelle che tipo phon, che senti... No, assolutamente. Non disturba affatto, no, non tocca nulla. La ventola è piccolina, è aggiunta quella, vero? Non è originale? No, è originale, cosa è aggiunta? Quella è originale, c'è la rete sopra, quella è originale. E anzi, l'altro modello ne ha 2. Questa ne è una perché è un modello particolare, capito? È un modello particolare perché c'è il dissipatore, se l'hai visto, è fatto ad alette in alto. È tutto alettato, no? Con tutte le alette che dissipa sia laterale sia sopra, eccetera. Però poi fa tipo una curva, capito? Proprio per essere arieggiato molto molto bene tramite la ventola. Eia, che finale monta, per caso lo sai? Sono quelli con la forma classica o quelli a croce tipo MRF XYZ, non mi ricordo la sigla. Non lo so, devo leggere il manuale, però ti posso dire che c'ha 4 finali, non 2, 4 finali a MOSFET super potenti. Avanti Gianfra, buonasera. Nella serie basta la parola, tra poco entro solo con la portante. Buonasera a tutti, Claudio, volevo sapere se è andato tutto bene poi. Gianfra, tu sei sempre quello che mi aiuti a me, alla grande, ho fatto quell'accoppiamento che mi hai detto stamattina, vedi che sono col vintage perché non potevo commutare, e sto andando alla grande, ma meglio di così non si può, Gianfra. Bene. Sono servite a qualcosa allora, perché io ce ne stavo già cestinando, perché di imbarazzi ce ne sono ancora a gogo nonostante gli ultimi sfratti. Buonasera anche a Marco, poi c'è anche qualche altro, che non mi ricordo il nome. Marco, tu invece come sei messo? Hai fatto qualche provetta con quell'affare? No Gianfra, la verità, da quella volta che ho provato il programma per indolenza, e io son così purtroppo, non ho più testato altro, però spero di trovare un giorno che mi salta la scimmia e comincio a provare tutte le funzioni, in modo da azzeccare almeno il modo di emissione, poi centrare bene col cursore il segnale vero e proprio con quella specie di waterfall, come si dice, vabbè, in italiano non so come si dica, già hai capito, quindi tutto da provare ancora. Vabbè, piano piano già si fa, basta andare su delle frequenze predefinite, così almeno lo usa bene. L'altro amico chi era? Antonio forse, interrogativo. Credo era Ginitto Damuros. Ah, Claudio 2? K, vai Claudio, Claudio 2, vai. Sì, sì, anche tu stai arrivando abbastanza bene. Claudio, ti volevo chiedere, anche se mi ha già risposto Claudio 2, se andava bene questo affare, questa radio, perché ho avuto qualche problemino col sistema, con un sistema. Gianfra, spettacolare, bella, pulita, ordinata, bella amplificata, fortissimo di segnale, ottimo. Questa cosa non ho capita. Fortissimo di segnale, io sto guardando il voltmetro, perché il voltmetro già lo sai che sono quelli seri, e mi sta dando 2 watt con un picco negativo che scende a 1,5 watt. Quindi della serie più diminuisco e più forte arrivo. Gianfra, 6,9 più 20, per me è un ottimo segnale, come sempre, a volte arrivi anche più 30. 9 più 20, tranquillo che stai andando alla grande. Marco, a te io ho diminuito ancora, l'ho portato alla seconda potenza, perché altrimenti insomma possiamo fare danno, dai. Quindi siamo intorno ai 350 modulati. Ok, vai Marco. Sì, sì. Comunque mi stupisce la modulazione, Claudio, che nonostante sia stato portato, credo, al massimo, no, della potenza prima per un breve passaggio, non abbia saturato. È bello, bello tarato bene. Ascolta, una curiosità, alla potenza massima, per caso hai notato se fai TV hai almeno la tua antenna TV? Assolutamente, manco alla TV qua dentro la stanza. Marco, ti ho detto che questo è un signor lineare, capito? Penso ce ne siano pochi. L'EA1000 è il numero uno, tutti i radioamatori stanno usando questo amplificatore allo stato solido, tutti i molti radioamatori, è il numero uno, è un amplificatore serio, un amplificatore che funziona, ma funziona veramente bene, ti ho detto, l'ho provato in 40 metri in banda laterale, stamattina avevo picchi intorno ai quasi 900 watt. Eia. Vabbè, questa è un'ulteriore riprova che quando l'impianto di trasmissione è a posto e anche l'impianto TV è a posto, non si disturba. Capito? Bene, bene. Allora, ho notato che Chiodo Arrugginito ha aumentato molto di modulazione. Adesso è più presente rispetto a prima, è più bella, bella forte. E riprendi tu, Claudio Di Muros. E l'apparato si può dire, Claudio, è il vintage che stai usando? Ah, vabbè, no, mi riferivo a Sparviero, per sapere con cosa lo sta pilotando. Vai, Sparviero. E magari l'hanno chiamato, dai. Vediamo se è rientrato Nicola. Nicola, ci sei? Sai cos'è? Che lui, quando, per farsi sentire, esce spesso in terrazzino, no? Per modulare. So che c'è un freddo da battere i denti in terrazzino adesso. Probabilmente è rientrato, non ce l'ha fatto, oppure l'hanno chiamato. Vabbè, poco male. Già, siamo qua, nel caso. Vai Gianfranco, vai, riprendi. Sì, buono anche qua, 9 più 15 qua, che io sono più in basso, e la modulazione ottima. Sì, sì, sì, abbastanza bene anche qua. Marco, un secondo, arrivo subito. Disturba parecchio. Sempre con, tra l'altro, con quel programma che dovresti usare tu. Marco, perché è collegato a un apparato particolare e ci sono stati dei problemi qua, lo sai, tutto integrato, quindi l'avrei voluto provare con una sua indicazione se praticamente si sente diciamo medio, forte o fortissimo come tipo di modulazione. Prendendo questa come riferimento? No, no, hanno proprio un vuoto come livello di audio. Tra poco avvio il programma e vediamo un po' cosa succede, perché se no è ancora un po', secondo me è una trasmissione un po' seccante, no? Vediamo un po', tra poco ti chiamo. sì, predisponi, dai, poi vediamo cosa ne esce, dai. Clavio si è assentato un attimo. Vediamo se c'è qualcuno che vuole entrare avanti su 10. No, oggi è molto silente la giornata, ed è entrato solo Roberto a fare una prova breve, presto, poi basta. Poi molto tutta la sera è stato l'apparecchio, con lo squelch ovviamente, io uso sempre lo squelch, non voglio sentire fusci, inutile lasciare l'apparecchio così a fare da friggitrice, per quanto usi un volume basso di ricezione io. Ok, riprendi chiodo arrugginito, avanti. Sì, io con il vostro permesso faccio questa brevissima prova, ok? Te lo dico alla Fantozzi, vadi, vadi! Ho sentito dei toni, una raffica di toni. Non stai uscendo e se sei tu, Gianfra. Al primo passaggio una specie di ti. Sì, era quello che doveva uscire. Mi dici com'era? Bassa, media o fortissima? Allora, no, bassa assolutamente no. Potrei dire non fortissima, nemmeno esagerata, medio-alta comunque, medio-forte. Vediamo per Claudio, che è un po' più lontano, com'era anche rispetto a questa voce che senti, dai. Sì, allora, abbiamo centrato il problema. Centrato in pieno il problema, perché era quella parte di programma che va un po' configurata anche in trasmissione con i livelli, capito? Perché non dipende da... cioè dipende parzialmente dall'apparato, ma soprattutto dal software che c'è installato. Va bene, sono contento, quindi niente frusci, niente fischi, niente trombette, così come deve essere. Ottimo. Vediamo se è rientrato Claudio 1. Claudio, niente, sarà in giro a portare il cane, forse. Avanti Marco. È per curiosità, che modo di emissione era quello? Sempre roba d'atti sarà, no? Che tipo di modo era? Un volgarissimo RTT televente a 50 baud, quindi niente di abbastanza vecchio, usata ancora dalle stazioni meteo, quelle cose lì, quindi ancora in uso, però c'è di meglio, ecco. Quello che chiamano, allora, scritto dovrebbe essere RTTY, no? Ciao Claudio, un abbraccio a te famiglia, saluta mio babbo, poi più tardi ti mando la foto di una radio che è in arrivo, che non ha nessuno in tutta la Sardegna, ok? Va bene, ti dico solo che è come Royce, però un'altra marca, capito? Un'altra marca però della stessa casa, diciamo, ok, poi ti farò sapere. Va bene, avanti Gianfra per i saluti a Claudio. Sì, ciao Claudio, allora, buona serata e buona cena, alle prossime, complimenti per la radio comunque. Riprendi Claudio 1. Gappa, ok, ciao Claudio, di nuovo un abbraccio, saluta mia babbo e mamma. E ci sentiamo, non toccare niente, usa questo microfono, usa questa radio perché è veramente spettacolare, e se te lo dico io Gianfranco non ne puoi starne certo, al 200%, non al 100%, veramente molto molto bella, molto affidabile, molto molto molto bella. Ok, sì Gianfra, ho fatto quell'accoppiamento che mi hai detto tu stamattina e come vedi tutto procede bene sui vintage, mentre prima mi fischiava, faceva eccetera. Quindi addirittura quello che c'avevo era peggio di quelli, ma veramente stanno suonando delle porcherie allucinanti, te le fanno pure pagare. Ma quelli sono di metallo, se non altro di buono, c'hanno quello, che non è lamierino, ma roba bella, abbastanza tosta. l'unica cosa sono quelle che c'hanno all'interno, che in caso di alte potenze magari potrebbero scintillare, diventano nere e allora si creano una marea di problemi. Mantenere dello smitter, Dumi, mantenere dello smitter che nelle a mille collegato. Ok, KK. No, no, Gianfra, ma quello che è dentro l'armadio, una porcheria veramente, una porcheria, tant'è vero abbiamo messo, anzi Luca, perché me l'ha ordinato Luca e gli ha messo il flashback negativo, perché non si può vendere una cosa del genere a 40 euro, capito? Mentre quelli che mi hai dato tu vanno veramente molto molto molto bene. Veramente bene, quell'accoppiamento è favoloso. Ok, Antonio, avanti, buonasera, ben ascoltato. Buonasera, buonasera a tutti, buonasera. Uff, ne ha giovinta la mia, va di travagliare. Sto gucciracco molto e do una manzana dovrà la carica. Eia, sei attaccato, ha giovinto che ha già attenuato, gas. Delle a mille c'è collegato, però è in seconda marcia. Tu immaginati che da attenuato da Marco vado attenuato, con refighin tutto chiuso, liscio 3, attaccato 8, con refighin tutto chiuso. Te l'ho detto, questa è una bella bestia, ma bella bella, mi sono tre palle di tenerlo dentro l'armadio. Ho detto, beh, adesso lo facciamo andare, va, abbiamo collegato al vintage, mamma di Durchi. Ti dico che tu sei arrivato in onga attenuato da paura, vabbè che con me sei molto favorevole. Attenuato, ma sono neanche a metà potenza. Poco fa ho fatto un passaggio con Marco di circa 800 watt, quindi adesso siamo sui 300 PEP, 350 col fischio, modulati siamo intorno a 280. Va bene, e come vedi la modulazione è bella, bella corposa, bella, bella prepotente, no, questo non fa nessun cambiamento, non te ne accorgi. Quando la professionalità è alta, questo è un lineare da 600 euro, Baromi Antu, non è un lineare da 150 euro. Avanti Gianfra. Ciao Antonio, buonasera, ben ascoltato. Mi ripeti, ma cos'è il BLA, il 1000? Sì, BLA 1000, l'RM Italy. Ma ti sei un po' sbagliato di prezzo. Però stavo guardando, sono... a 2700 euro K. Quello è l'altra serie, questo è quello da 680, spedito 720 euro KK, sì, quello, non c'hai foto per mandartelo, ma una bella bestia, sto andando a 24 volts, questo è completo col suo alimentatore che costa giù mai canteru lungoso il lineare, comunque c'è il suo alimentatore a 24 volts e sto andando in seconda marcia, siamo intorno ai 300 watt, 300 fischiati, 350 modulati, 300, 290 in seconda marcia, in sesta marcia siamo intorno ai 850 watt. Puro, abbiamo voluto provare uno, vabbè che no che non regge il capo. No, Anto, lascia perdere, che c'è un assorbimento di quasi 30 ampere, non si gioca con queste cose, se non hai impianto serio ci vuole cavo grosso, spezzoni grossi, tutto l'impianto fatto a regola d'arte, altrimenti sfasci quanto c'è. KK, va bene che va bene. Attenua, tu, Anto, attenua. Anto, la Marco si è assoltato, ma ha detto, mai visto un segnale del genere? Io ho visto di peggio, se tolgo l'altro è ancora peggio. Perché Gianfra, da te non va bene? Ottimo, no? Sì, tra l'altro non fai quel problema che ti ho spiegato stamattina. Cosa strana! No, però sono perplesso, io ho ad esempio questo qua, KLV1000, che costa, quanto hai detto tu, più o meno, questo è 750, però è solo 26-30, quindi... Ce ne sono tanti in quel modello che non si comprende nulla, e questo te ne da 700 sì, infatti, in banda laterale stamattina ero in quinta marcia, avevo picchi di modulazione in 40 metri, intorno agli 850-900 watt. Ma le dà anche in AM, più o meno siamo lì. Sì, questo è l'LA 24.000, 6 V, 6 versioni, 6 marce. Questo è il 24 volts, infatti c'è il suo alimentatore a parte che è un po' più piccolo dell'amplificatore, ma comunque abbastanza, con due ventole anche l'alimentatore a 24, una ne ha lui bella grossa, è una bella bestiolina. Una bella bestiolina, avanti Antò. Cappa, un bel forte cecca, io l'ho visto quanto sei attenuato, qua è da paura, ma qua guarda tu e Roberto siete, mi arrivate fortissimo, forse perché sono favorevole a quella zona lì, non lo so, tu e Roberto Quadrato qua mi arrivate un bel forte, sì, ma forti però. Adesso questo tu hai anche attenuato, tu hai anche attenuato, cavolo, sì, una cosa che non si crede. Guarda tanto, se io te lo metto, aumento solo di due marce ti accorgi della differenza, solo di due marce ti accorgi della differenza, ma il bello è che non ti distorce la modulazione, te la tiene bella costante, bella forte, capito? Perché è una cosa professionale. Non la volevo usare qua, però mi sono rotto le scatole e tu dici la usiamo un pochino, intanto io in HF non lo sto usando e quindi questo è lo stato solido, vabbè. Sì, già fra due modelli ce n'è, c'è il 12 e il 24, questo è il modello 12 e 24 fa, però io lo sto facendo andare con l'alimentatore suo a 24 volts, capito? Dopo mi sono mandato un video attenuato, non attenuato, una cosa allucinante. E non sei a manetta, se non toccando di pista. Cioè, tutto tormato, già sta toccando di pista, toccando di pista. Immaginiamoci com'è. Antò, hai parlato assieme a Gianfranco e... Gianfranco è leggermente più forte, cosa hai detto? Detto che quasi, cioè, sì, quasi attaccato al DB, sei. Cioè, tutto aperto, sei quasi sul DB, attenuato un po' di meno, ma ti ho mandato il video. Vediamo se lo passa al DB adesso, guarda a vedere. Tagitini varia. Ah, lo bassa, lo di via, lo bassa. Adesso aveva attenuato come te sta cosa. Poco attenui così, con la sesta marcia poco attenui, siamo ora, ora, quasi 800. Capo, è già attenuato un pocaretto, ma di poco però. Già va bene, tu, già va bene. Guarda se cambia la modulazione, guarda il massimo della potenza, guarda. La vedi che sempre vuoi la modulazione. Cappa, ho fatto una prova, ti sento di canale. Cosa Gianfra? Ha aumentato di Datea? Sì, sì, non si è andato al massimo a 960, perché su questo penso sia quasi impossibile. Però a 940, 945. Però, come ti stava dicendo anche Antonio, te ne sei andato su tutta la banda quasi, quindi stai occupando un casino del canale. Sì, ero qui con la potenza, infatti ho riabbassato. L'ho detto Antonio, avevamo un discorso con Antonio l'altro giorno che è impossibile per me usare potenze molto alte perché faccio danno, capito? Faccio danno forte da quassù. Quindi è meglio ottenere potenze medio-basse. Comunque la potenza è sempre potenza. Anch'io, cioè, se mi bonga un paio, no, che già qualcuno si è un pochettino lamentato, dice che mi sentiva. Cioè, se mi bonga un paio, almeno nella zona del latte dolce, è un casino, me. Non ne comprendi più nulla. Il pericolo qua, paradossalmente, sono non tanto i televisori quanto i citofoni. Si sente nei citofoni. dove? Io? No. No, per dire, oltre ai televisori, il pericolo sono i citofoni, che sentono la voce, capito? Perché sono dei circuiti quasi sempre aperti. Lo so. Vabbè, infatti no, non è che si usa solo in casi estremi, ma è giusto per farlo andare, perché è ancora dentro la scatola, guarda. Quando ce l'ho l'avrò usato, se no, 2-3 volte, perché è una cosa che non si può usare, dà molto, molto fastidio. Dà molto fastidio, splatterare a me non mi piace, assolutamente. Hai capito tu? Te ne sei accorto adesso cosa vuol dire avere la professionalità degli amplificatori? Quelli sono amplificatori, con quello ti puoi permettere di fare tantissime cose. Sì, ma poi me lo prenderò anche io. Ma allora dimmi, vai, a quanto sei adesso? Adesso sono alla seconda potenza, l'ho abbassato ancora, siamo intorno ai... intorno ai 200 watt, 250 watt. Claudio. Oh, dimmi. Visto che Gianfranco adesso non so che smitter stia usando, fare direttamente la prova da liscio liscio o tutto a manetta, per vedere la differenza da lui, però da liscio a tutto a manetta. Possiamo farlo. Gianfranco, smitter grande c'hai? No, questo è piccolo, qua di smitter non viene considerato, capito? E di quegli apparati di ultima generazione, quindi si basa più sui BER, sui DB e cose di questo genere. Il segnale qua è relativo. Tu figurati che spostandomi di canale, per quello che ti ho chiesto la potenza, già dopo 3 canali non ti sento più, proprio non esisti. Figurati a che livelli è la selettività. Sì, beh, normale, come quello che ho io, è chiaro che non sento niente, però sta dicendo Marco, se ti viene bene darmi un controllo da liscio attaccato per vedere quanto è la differenza. Infatti ti ho detto che è difficile rispondere, perché io arrivo fino a 9 e poi va anche sulla linea rossa, che però è... non fa, dai. Dovrebbe essere 9,40, però... di tanto non ho capito, è generico, da lì in poi oltre il 9 è una cosa relativa. Comunque, se vuoi provare. No, lascia perdere, dai, già l'ho già fatta con Marco la prova, anche se c'è il baracchino siamo accorti che la prova tecnica di trasmissione già funge, già va bene, vero Marcolino? Sì, adesso naturalmente prendila col beneficio del dubbio, perché da 3 a 8 5 centesimi di differenza magari è un po' abbondante, però se non sono 5 sono 3,5-4, capito? Ma comunque prove ne avrei già fatto con qualcuno che ha il K, cioè smitter serio che abbia un minimo di distanza, che sia limitrofo a Sassari o meglio ancora più lontano. Più lontano è ancora meglio, vedi la netta differenza. Va bene, manda la telare comunque per i DX deve essere spettacolare. Volevo chiedere una cosa a Gianfranco. Gianfranco, ti ricordi grosso modo quando è il prossimo picco dei macchie solari, il ciclo decennale? Ci stiamo avvicinando, ho letto qualcosa, è corretto? No, guarda, non te lo so dire onestamente, se mi chiedevi dove si trova la stazione spaziale ti potevo rispondere, ma sulle macchie solari, dato che oramai il pianeta è tutto incasinato, non ho la più pallida idea. Forse lo sa Antonio, ne sai qualcosa? Cosa ne so io? Ah, vabbè, no, perché su internet, spiego, ci sono schemini, no, le ciclo decennale. E qualche radioamatore su un forum ha detto che sia pur lentamente ci stiamo di nuovo riavvicinando, che può essere fra 2-3 anni, cioè vicini vuol dire molto relativo. Perché in quel caso se l'attività solare è buona e le macchie solari sono abbondanti, sì, ci sarà un incremento di propagazione, almeno per la 27 HF e tutto quanto. E magari si può fare qualche bella prova in estate e primavera. Vabbè, aspettiamo, che dobbiamo fare? Io sono così una cosa, se no chi mi dà tenere? Se ci avrei avuto il baracchino che avevo prima, con questa antenna, Uiuia, nel 45, Uiuia. Guarda tu, molti di voi sono fissati con questa cosa della potenza, ma la potenza serve solo nelle gambe molto basse, tipo 160 metri, eccetera, che voi non avete ovviamente. Guarda, stamattina Claudio ha visto un apparecchio, un certo apparecchio, e con quell'apparecchio, con la sua antenna, potenza all'incirca 25 watt, ho parlato tranquillamente con l'Argentina. Dille cos'era, Claudio? Un mostro, una cosa cartologica della macchina. In fora mare. La batteria da portare a spalla. E chi si bomba nei me? 25 watt al massimo, che a batteria. Buono, buono, è buono. Beh, ah no, quella non è pronta. È buono, cavolo. E così è. Marco, invece, cosa ti volevo dire? Mi è scappato la vecchiaia. Riprendi. Dai, riprendo io, ci sentiamo dopo se ci siete, ok? Mi ha fatto piacere, due chiacchiere, devo andare a cenare, va bene? Tanto ti ho mandato la foto, guarda quanto è grande, si vede poco nella foto, ma è un bel ragione enorme. Ok, ci sentiamo dopo, ciao Gianfranco, ciao Marco, Antonio e chiunque fosse in ascolto, dai. Ci sentiamo dopo, vai Anto. Ciao Cla, ci sentiamo alle prossime, e pure io mi quasi pronta la minestra, scendo giù a mangiare. Ok. Vabbè, vi saluto pure io, bello ga, bello ga. Dopo io qua. Manca si scioglie un gavo. Sì, dai, ce la risentiamo. Ehi Anto, quando c'hai l'impianto ad hoc, ti hai messo il cavo e tutto, già te lo faccio provare, dai. Ok, ciao a tutti di nuovo, ci sentiamo dopo, già fra se ci sei con Marco, ti cambio per Marco, a dopo se ci siete. Cappa, dai, pure io chiudo e vado a mangiare. Cappa, dai, buona cena. Antonio, Claudio, adesso devo mangiare. Sì, qua c'è, comunque tornando al discorso di primo, un grossolano schema, bene o male il minimo solare l'abbiamo toccato nel 2009, 2019, 2020, e comunque siamo in ascesa, dai, può darsi che nel 2021 dintorni 2022 ci sia qualcosa di buono a livello di propagazione anche nel 27. Caspita, mi ricordo che negli anni, cos'era? Metà 80, anche dal 90 in poi era strepitosa la propagazione. Vabbè che c'erano parecchi utenti, adesso siamo quattro gatti. Vai Gianfranco per i saluti, vai. Sì, ciao Claudio, ciao, ciao Antonio, buona cena. Sì, no, a me invece mi piacciono le basse potenze, io sono appassionato di arrivare lontano con bassa potenza. C'ho sempre questa convinzione che di segnale ce ne vuole quanto basta per arrivare. Sì, vabbè, quello sì, però sai, ogni tanto meglio avere l'arsenale pronto per collegamenti in distanza di ex, soprattutto in banda laterale, non tanto in AM, è troppo lungo. L'SB va bene, anche l'FM, mi piacerebbe usare più l'FM, ma non c'è la cultura dell'FM da noi, va bene, non fa niente, tanto poi un modo vale l'altro alla fine. Ok, allora che Gianfra, io devo necessariamente staccare, quindi per oggi dai, ho finito, comincio a accendere la TV, vediamo cosa ne esce, ok? Ok, Marco, anch'io adesso vado alla TV e quindi ti saluto anch'io. Quando colleghi il trick and track al PC, facciamo una prova e tu mi centri, ma tanto è una cosa semplice, devi spostare praticamente la sintonia. sintonia fino alla corrispondenza del segnale e vediamo un po' cosa ricevi. Sicuramente ricevi, perché ci mancherebbe altro. Ok, ciao, quindi non mangiare troppo e a domani. K, di nuovo ciao, ciao anche agli ascoltoni, ciao a tutti, ciao ciao. Ciao, alle prossime.